maggio del 1998. Nella caserma della Guardia Svizzera vennero rinvenuti 3 cadaveri, tutti uccisi con colpi d'arma da fuoco. Una delle vittime era il comandante delle guardie appena nominato, assassinata anche sua moglie, mentre il terzo corpo era di un giovane vice caporale, Cédric Tornet. Secondo la versione ufficiale della Santa Sede, il giovane Tornet avrebbe ucciso con la pistola d'ordinanza prima il suo comandante, poi la moglie e poi si sarebbe quindi suicidato. Causa probabile un raptus di follia, un mistero della mente umana. Mi chiamo Cédric Tornet, vice caporale del Corpo delle Guardie Svizzere dello Stato Pontificio. Sono morto il 4 maggio del 1998, intorno alle ore 21, per una ferita d'arma da fuoco. Mi chiamo Alois Esterman, comandante del Corpo delle Guardie Svizzere dello Stato Pontificio. Sono morto il 4 maggio 1998, intorno alle ore 21, per una ferita d'arma da fuoco. Mi chiamo Gladys Mezza Romero Esterman, moglie di Alois Esterman. Sono morta il 4 maggio del 1998, intorno alle ore 21, per una ferita d'arma da fuoco. La pallottola mi è entrata dalla bocca ed è uscita dalla base del cranio, andando a conficcarsi sulla parete dell'appartamento del tenente colonnello Esterman, dove sono stato trovato cadavere. Sono stato raggiunto da 2 pallottole. Una mi ha centrato il viso, lo zigomo sinistro. Un'altra mi ha attraversato il fianco e ha reciso il canale midollare. Sono stata raggiunta da un unico proiettile, che dalla spalla sinistra ha raggiunto la colonna cervicale. Sono stato trovato a pancia in giù, con la mia pistola d'ordinanza sotto di me. I nostri corpi sono stati trovati riversi nel sangue nell'appartamento del comandante Esterman da una suora che abitava nell'appartamento vicino e che era stata richiamata dai forti rumori. La porta dell'appartamento di Esterman era aperta. Dopo la scoperta della strage sono accorsi sul posto vari prelati, dirigenti della segreteria di Stato e della vigilanza vaticana. La polizia italiana non è stata informata e nessun aiuto è stato chiesto alle autorità italiane. Nessuna cautela è stata adottata sul luogo della strage. A mezzanotte i corpi sono stati trasportati su delle brande nell'obitorio vaticano presso la chiesa di Sant'Anna, senza l'utilizzo di guanti né di sacche per il trasporto. L'appartamento è stato riordinato e sigillato dalla vigilanza. Poco dopo la mezzanotte, il responsabile della sala stampa della Santa Sede ha rilasciato ai giornalisti la seguente dichiarazione. Il comandante del corpo della Guardia Svizzera Pontificia, colonnello Alois Esterman, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione insieme a sua moglie Gladys Mesa Romero e al vice caporale Cédric Tornet. I corpi sono stati rinvenuti poco dopo le ore 21 da un'inquilina dell'appartamento accanto, richiamata da forti rumori. Da una prima sommaria ricognizione è possibile affermare che tutti e 3 sono stati uccisi da un'arma da fuoco. Sotto il corpo del vice caporale è stata rinvenuta l'arma d'ordinanza del medesimo. I dati finora emersi permettono di ipotizzare un raptus de follia del vice caporale Tornet. Il Vaticano ha la certezza morale che i fatti si siano svolti così. Alle 7 del mattino del giorno seguente, il cappellano delle Guardie Svizzere, che con la morte del colonnello ha assunto la funzione momentanea di comandante, ha riunito tutte le guardie nel cortile della caserma, ha ripetuto la versione del portavoce della Santa Sede e, in aperta violazione del segreto istruttorio, ha esibito e letto una presunta lettera d'addio che Cédric avrebbe scritto prima di compiere la strage ed ha fatto giurare a tutti di non dire niente che potesse nuocere al corpo delle Guardie Svizzere. Nel pomeriggio, una nuova conferenza stampa conferma la versione precedente. Sebbene manchino ancora i risultati dell'autopsia e delle perizie, siamo in grado di fornire una prima ricostruzione dei fatti. Verso le 9 di sera, il vice caporale Tornet si è recato presso l'appartamento del nuovo comandante della Guardia Pontificia, ha suonato il campanello, è stato ricevuto in un salottino situato accanto all'ingresso e ha subito cominciato a sparare. Dopo aver sparato a Esterman e alla moglie, Tornet ha rivolto l'arma contro se stesso e si è sparato nella bocca. La pistola è stata trovata sotto il suo corpo. Ha sparato 5 colpi, uno è rimasto in canna. È stato un gesto di follia, un raptus improvviso del vice caporale Tornet. Il soldato si era distinto per sistematiche infrazioni disciplinari che avevano provocato i richiami ufficiali da parte del colonnello, che gli aveva anche negato un'onorificenza. È tutto molto chiaro. Non c'è spazio per altre ipotesi. 9 ore prima del suo assassinio, il colonnello Esterman era stato nominato comandante delle guardie svizzere, dopo che la delicatissima carica era stata inspiegabilmente vacante per più di 5 mesi. E la sera del 4, i due coniugi avevano stabilito di cenare con amici e parenti all'Hotel Columbus in Via della Conciliazione per festeggiare la nomina tanto attesa. Li aspettavano alle ore 21 presso la loro abitazione, ma quando arrivarono, i parenti di Esterman si trovarono di fronte a una macabra sorpresa. Il vice caporale Tornè era di guardia in servizio straordinario nell'androne d'ingresso della palazzina in cui abitava Esterman, dove era riunito uno dei gruppi di lavoro linguistici del Sinodo dei Vescovi. Il piantonamento terminava alle ore 19. Un'ora e mezza prima del delitto, il vice caporale Tornè avrebbe affidato una lettera d'addio ad un suo commilitone, dicendogli: se mi succede qualcosa, consegnala ai miei genitori. Il 6 maggio, in seguito ai risultati delle autopsie, la versione del Vaticano viene ufficialmente confermata. The Lord is my shepherd, I have all I need. She makes me lie down in green meadows, beside the still waters. Il 6 maggio, 2 giorni dopo la strage, l'anziano ex comandante delle guardie svizzere Loran Bux, che aveva lasciato l'incarico il 30 novembre dell'anno precedente, viene richiamato al comando del corpo. Per tutta la durata del suo comando ad interim, il comandante Bux si rifiuta di indossare la divisa. Forse Bux non è troppo convinto della versione ufficiale del Vaticano. Per suo volere, le bare dei 3 defunti vengono collocate vicine nella camera ardente. E in occasione del suo funerale, la salma di Cédric Tornè viene vestita con l'alto uniforme e le vengono resi gli onori militari da un picchetto di 40 alabardieri con la bandiera della guardia e i portaspadone d'onore e i tamburi che intonano il canto d'addio dei soldati. Un trattamento piuttosto insolito per un omicida-suicida. Il funerale mio di mio marito si tiene il 6 maggio, quello del vice caporale Tornè il giorno seguente. Al funerale di Cédric sono presenti la madre del defunto e alle sue spalle i miei genitori e una sorella di Gladys. Al momento di scambiarsi il segno di pace, la madre di Cédric, i genitori di Aloïse e mia sorella si stringono la mano e poi si abbracciano. Fra coloro che partecipano al rito c'è Yvon Bertorello, un giovane sacerdote italo-francese che dice di essere il padre spirituale di Cédric. In privato, alla presenza di altri testimoni, Bertorello dice alla madre di Cédric di avere le prove che suo figlio è stato assassinato. Poi sparisce. Raggiunto telefonicamente da un giornalista francese, Bertorello smentisce tutto. Oh, no, non l'ho mai detto. Ero in preda all'emozione del momento, o meglio, all'epoca dovevo essere particolarmente sconvolto e i sentimenti hanno avuto il sopravvento sulla ragione. Io credo, guardi, io sono sicuro che Cédric Tornè sia stato assassinato. Si sia suicidato. Se il vice caporale si è suicidato, perché gli è stato riservato un funerale religioso con tanto di picchetto d'onore? Se Tornè ha scritto una lettera confessione 1 ora e mezzo prima di attuare la strage, com'è possibile parlare di raptus di follia? Se all'origine del delitto ci fossero stati i suoi contrasti con il colonnello Esterman, perché Cédric avrebbe ucciso anche la signora Romero? Perché la porta dell'appartamento è stata trovata aperta? Perché la vicina di casa dice di aver sentito dei rumori? 5 colpi di una Six Tower calibro 9, una pistola da guerra, provocano 5 boati, non dei rumori. Rumore può essere definito il colpo che provoca una pistola col silenziatore. Il colonnello Esterman era il comandante delle guardie svizzere, la guardia personale del Papa, un esperto di antiterrorismo. Possibile che si sia fatto giustiziare così facilmente dal suo vice caporale? È sospetta anche l'abilità che, secondo la Santa Sede, dimostra il Tornè. Uno che con 4 colpi in successione centra i suoi bersagli come un killer professionista. Perché escludere a priori che il vice caporale Tornè possa essere stato trascinato nell'appartamento già cadavere? Per quale ragione? ragione, l'esercito del Papa è rimasto senza comandante per mesi e poche ore dopo la sua nomina l'ufficiale designato è stato assassinato. Ma soprattutto perché il Vaticano non ha chiesto l'intervento della polizia e della magistratura italiane, come aveva fatto nel caso del rapimento di Emanuela Orlandi e dell'attentato a Papa Giovanni Paolo II? Il Vaticano non aveva gli strumenti per indagare su un caso del genere. Non bastano un professore o un avvocato, per quanto bravi, per risalire agli autori di un caso simile. Ci vogliono tecnici, investigatori, mezzi, l'apparato di uno Stato vero e moderno che il Vaticano non è. Senza contare che i responsabili dell'inchiesta sono specializzati in diritto civile e costituzionale, nulla a che vedere con il diritto penale. L'elemento che inficia alla radice la versione ufficiale è che nessuno ha udito i fragorosi spari esplosi dalla potente pistola trovata sotto il cadavere di Cédric Tornet. 5 colpi sarebbero stati sparati da un'arma da guerra all'interno di un piccolo appartamento con la porta spalancata, dentro un'angusta palazzina di 3 piani, in un tranquillo orario serale, senza che nessuno, né all'interno dell'edificio né all'esterno, abbia udito le detonazioni. Il 9 maggio il giudice unico dello Stato Vaticano trasmette l'istruttoria sulla strage del 4 maggio al promotore di giustizia, il pubblico ministero. Nell'occasione dichiara: non tutto è stato chiarito sulla dinamica della strage. Ci sono ancora dei punti oscuri, ma l'inchiesta verrà conclusa in tempi rapidi. Il deferimento del comandante Bux, predecessore di Esterman dal Vaticano, era avvenuto nel novembre del 97, in concomitanza con la conclusione dell'istruttoria della magistratura italiana sulle misteriose scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, 2 ragazze quindicenni, la prima cittadina italiana e la seconda vaticana, rapite nel 1983 e mai più ritrovate. Un'istruttoria molto imbarazzante per la Santa Sede. I giudici italiani, infatti, accusavano il Vaticano di aver contribuito a depistare l'inchiesta. Dichiara il prefetto di Roma il 9 febbraio del 94. La Santa Sede, pur disponendo di diversi contatti telefonici, non ha reso partecipi dei suoi rapporti la magistratura e le autorità di polizia italiane. Ritengo che le ricerche siano state viziate dal diaframma frapposto tra lo Stato italiano e la Santa Sede. L'intera faccenda è stata caratterizzata da numerose iniziative disinformative con fine di palese depistaggio. Il repentino allontanamento di Bux aveva lasciato il corpo delle guardie svizzere senza un comandante per molti mesi. Solo a mezzogiorno del 4 maggio 1998, 9 ore prima della sua morte, Alois Esterman, ex vice di Bux, è stato nominato nuovo comandante del corpo. Nei mesi tra la fine di novembre del 1997 e l'inizio di maggio del 1998, nelle stanze del comando dello Stato Vaticano si era combattuta la parte finale di una guerra intestina tra le due fazioni che da molti anni si contendono il potere, quella dell'Opus Dei e quella della massoneria, la prima intenzionata ad annettersi il controllo della Guardia Svizzera, la seconda impegnata ad impedirglielo. Una struttura nevralgica la Guardia Svizzera. Il corpo infatti presidia il Palazzo Apostolico controllandone tutti gli accessi e il comandante vigila costantemente la persona del Santo Padre sia in pubblico che in privato. L'Opus Dei è una potentissima massoneria clericale fondata nel 1928 dal religioso José María Escrivá de Balaguer. È una società segreta e come tale proibita dalla Chiesa. L'Opus Dei nega di essere una confraternita segreta, ma rifiuta di rendere nota la lista dei suoi affiliati. Solo una piccola percentuale dei suoi membri è costituita da ecclesiastici. I rimanenti sono laici e di entrambi i sessi. L'Opus Dei rappresenta lo schieramento di estrema destra della Chiesa Cattolica. Dispone di sedi, comunità, enti, università in ogni continente. Il suo nome, Opera di Dio, sottende un'organizzazione santa, immutabile ed eterna, voluta da Cristo come strumento di salvezza nel cuore della sua Chiesa, con il compito di cristianizzare e santificare i popoli e le loro istituzioni. Mentre le logge massoniche sono autonome, pervase da correnti e lotte intestine, gli affiliati dell'Opus costituiscono una grande, compatta e potentissima organizzazione internazionale. I primi passi della scalata opusiana in Vaticano, all'inizio degli anni Ottanta, coincidono con gli ultimi atti del colossale intrigo finanziario Ioram Ambrosiano. Uno scandalo provocato da anni di scorribande della Banca Vaticana, gestita dalla cordata massonica. massonica. La Chiesa di Roma si trovava al culmine di una crisi gravissima, coinvolta in un imminente crack bancario di oltre 1.000 miliardi di lire e con ripercussioni diplomatiche internazionali, era attanagliata da acute difficoltà finanziarie. In soccorso della Santa Sede si muove l'Opus Dei, che offre il suo intervento per salvare dal crack il Banco Ambrosiano, chiedendo in cambio il controllo dello IOR, Istituto per le Opere Religiose, la Banca Vaticana. Ma la cordata massonica si oppone al progetto. Il Banco Ambrosiano affonda nel crack e la Loggia Vaticana mantiene il controllo dello IOR. Eletto grazie al sostegno di cardinali filo-opusiani, Giovanni Paolo II accorda a questa organizzazione integralista lo status di prelatura personale, facendone una diocesi mondiale, extraterritoriale, una chiesa nella chiesa. Tramite un accordo diretto col pontefice, capitali filo-opusiani per 250 milioni di dollari consentono al Vaticano di uscire dal crack IOR Ambrosiano. E per alleviare le difficoltà finanziarie della Santa Sede, le fondazioni filo-opusiane cominciano a erogare finanziamenti a pioggia per opere di carità. Da allora la penetrazione dell'Opus Dei nel Palazzo della Chiesa è stata inesorabile, frenata solo dall'altro clan del potere occulto in Vaticano, quello massonico. La penetrazione massonica in Vaticano cominciò all'inizio degli anni 70 sotto il pontificato di Paolo VI e venne consolidata dalle trame finanziarie imbastite dalla loro presidente della Banca Vaticana, insieme a banchieri cattomassoni affiliati alla loggia segreta P2. Con l'avvento di Papa Luciani nel 1978, la confraternita massonica rischiò di essere debellata. Giovanni Paolo I, infatti, aveva avviato un'indagine sulla presenza massonica nelle gerarchie ecclesiastiche e si apprestava a destituire il segretario di Stato e il presidente della Banca Vaticana. Aveva inoltre intenzione di conferire all'Opus Dei l'elevazione a prelatura personale, che fu poi accordata dal suo successore. Ma non poté portare avanti i suoi propositi perché il 28 settembre fu trovato morto nel suo letto. Le cause della sua morte sono tuttora ignote, dal momento che non è stata autorizzata l'autopsia sul suo cadavere. È interessante notare che l'attentato a Giovanni Paolo II avvenne poco prima che egli concedesse all'Opus Dei il titolo di prelatura personale. Una vicinanza compromettente quella di Giovanni Paolo II con l'Opus Dei, che porterà il Papa polacco a fare visita al dittatore cileno Augusto Pinochet, amico di Balaguer, segnando il punto più basso della popolarità del pontefice. Sotto il pontificato di Karol Wojtyla, comunque, il presidente della Banca Vaticana è rimasto sempre al suo posto, erogando forti finanziamenti al sindacato cattolico e anticomunista polacco Solidarnosc. Oltre a queste due grandi cordate si muovono altri piccoli gruppi, come i Legionari di Cristo, Comunione e Liberazione, i Cavalieri di Colombo, i Lefebvriani, che sostengono di volta in volta la cordata massonica o quella opusiana, a seconda delle convenienze. Le due grandi fazioni nelle situazioni di emergenza si vedono costrette a fare fronte comune e a collaborare. È interesse di entrambe, ad esempio, che la verità sulla strage del 4 maggio 1998 non venga a galla, proprio perché affonda le sue radici nella perenne guerra sotterranea. Nello scontro di potere fra la cordata massonica e quella opusiana, l'aspetto finanziario è determinante e i coniugi Esterman entrano negli ingranaggi di quella grande contesa. A Lucerna, il 29 ottobre del 1954, dopo il diploma, Esterman sceglie la vita militare. Nell'estate del 77 trascorre 3 mesi come guardia ausiliaria dell'esercito pontificio e il 1 luglio del 1980, all'età di soli 25 anni, entra nella guardia svizzera pontificia direttamente con la carica di capitano. È la prima volta nella storia della guardia svizzera che qualcuno entra nel corpo direttamente con il grado di ufficiale. Nell'aprile del 1983 viene promosso maggiore. Un avanzamento senza precedenti e inspiegabile se si considera che il grado di maggiore veniva conferito solo agli ufficiali coniugati e Esterman era scapolo. Pochi mesi dopo, un nuovo inedito privilegio. Benché da regolamento occorressero 5 anni di servizio per essere autorizzati a contrarre matrimonio, il 24 dicembre Esterman sposa con rito cattolico la venezuelana Gladys Meza Romero, di 6 anni più grande di lui. Dopo essersi già unito con lei in Venezuela con rito civile, pochi mesi prima. Il matrimonio accelera ulteriormente la carriera di Esterman, poiché trova in sua moglie un alleato ideale. Nata il 24 gennaio 1949 a Caracas, Venezuela, terzogenita di 9 figli, dopo la scuola Gladys Meza Romero si arruola nei servizi di informazione e sicurezza della Polizia di Stato. Approda a Roma nel 1981, grazie all'interessamento del potente cardinale filo pusiano Castillo Lara, e nel 1992 entra ufficialmente nell'ambasciata venezuelana presso la Santa Sede. Non fa parte del corpo diplomatico, è inquadrata come funzionario amministrativo. Nel 1993 consegue la laurea in diritto civile e canonico presso la Pontificia Università Lateranense di Roma e si iscrive alla Libera Università Maria Santissima Assunta, collegata al Vicariato di Roma. L'ambasciata venezuelana presso la Santa Sede è l'epicentro di un forte flusso di capitali tra Europa e America Latina. Gladys è riservatamente incaricata di mantenere i contatti con il Vaticano e di gestire materialmente i fondi dell'istituzione filopusiane legata all'ambasciata. Nel 1987 Esterman viene promosso tenente e poi vicecomandante. Nell'89 diventa tenente colonnello e responsabile amministrativo e finanziario del corpo. A partire dal 1990 comincia a organizzare una cellula opusiana all'interno della Guardia Svizzera. È il primo passo verso la costruzione del corpo scelto, secondo i disegni dell'Opus Dei. Un reparto speciale, in grado di neutralizzare il potere poliziesco della vigilanza, da sempre controllata dalla cordata massonica, di sorvegliare i palazzi apostolici e il pontefice. Un tassello decisivo per la scalata al potere nel palazzo della Chiesa di Roma. Negli anni i coniugi Esterman costruiscono una fittissima ragnatela di contatti e rapporti con personalità ecclesiastiche, ambienti politico-finanziari, diplomatici e militari, non solo vicini all'Opus Dei ma anche a settori della massoneria vaticana e internazionale. Per il suo carattere ombroso e collerico, per la sua indole autoritaria e con punte di fanatismo, all'interno della guardia il vicecomandante Esterman è temuto e mal tollerato, non solo dalla truppa ma anche da sottufficiali e ufficiali, nessuno dei quali può vantare i contatti e le protezioni di cui gode il tenente colonnello. Nel 1996 comincia a circolare la voce che il colonnello Bux, allora comandante del corpo della Guardia Svizzera, avrebbe lasciato il comando l'anno successivo. I coniugi Esterman intensificano le loro pubbliche relazioni, inviando biglietti e regali in occasione delle festività ai membri di spicco della Curia Romana, del corpo diplomatico, a politici e a giornalisti, come nelle più classiche prassi politico-clientelari. Dimissionario fin dal maggio 1997, il colonnello Bux lascia ufficialmente il comando il 30 novembre successivo ed Esterman viene nominato reggente e poi comandante ad interim. Passano altri 4 mesi prima che la carica provvisoria di Esterman venga superata con la promozione al grado di colonnello e con l'incarico ufficiale di comandante. In totale più di un anno di manovre, trattative e scontri culminati il 4 maggio 1998. Per scoprire i mandanti, esecutori e movente della strage 4 maggio 98, una vera inchiesta giudiziaria avrebbe dovuto indagare a fondo sui coniugi Esterman e sulle loro attività riservate e di conseguenza avrebbe dovuto rovistare nelle più segrete stanze del Vaticano. Avrebbe cioè dovuto fare quello che la Santa Sede ha voluto impedire che si facesse. Nato il 24 luglio 1974 nel cantone Vallese, Cédric Tourné entra nella Guardia Svizzera il 1 dicembre 1994 all'età di 20 anni. Il giovane era stato reclutato da Louis Esterman in persona, che lo aveva conosciuto durante una vacanza in Svizzera, a Martigny, dove Tourné partecipava alle attività di un gruppo scout. In caserma Cédric trova un clima tutt'altro che sereno, tra fazioni, contrasti e stranezze inverosimili. Trova il vicecomandante, il tenente colonnello Esterman, che ha l'ossessione del corpo della vigilanza ed è arrivato a vietare qualunque contatto fra gli alabardieri e gli appartamenti all'ex gendarmeria. Il vicecomandante è temuto e chiacchierato anche per via di quella sua moglie venezuelana, in stretti rapporti con i vertici del Vaticano, arrogante verso le guardie e altezzosa con le mogli degli altri ufficiali. Il rapporto tra Esterman e Tourné è inizialmente improntato a un'amicizia molto stretta, caratterizzata da favoritismi e attenzioni personali. Non è un segreto, infatti, che il comandante simpatizzi con alcuni soldati, gran parte dei quali sono omosessuali dichiarati. La Guardia Svizzera viene da molti considerata come un bacino di raccolta di giovani uomini con i quali anche potenti prelati amano intrattenersi in privato. Poiché nella banda del corpo non ci sono più i treppiferai, l'alabardiere Tourné impara a suonare lo strumento. Insieme a 2 commilitoni ristabilisce l'antica usanza. Il 6 maggio 1995, indossando l'alto uniforme, la corazza e l'elmo piumato, con tre dita della mano destra alzata e con l'asta della bandiera del corpo nella mano sinistra, Cédric pronuncia il solenne giuramento. Giuro di osservare tutto ciò che il mio Stato richiede. Giuro di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente il sommo pontefice regnante, di dedicarmi a lui con tutte le mie forze, sacrificando, se occorre, la mia vita in sua difesa. Un mese dopo la strage, la madre di Cédric rilascia un'intervista al settimanale italiano Panorama. Se mi avessero detto che mio figlio era impazzito, avrei anche potuto cercare di farmene una ragione. Invece ho ricevuto solo menzogne. Vivo solo per cercare la verità. Sono troppi i misteri, le bugie del Vaticano. Quali bugie avrebbe detto il Vaticano? Prima, come spiegazione della strage, hanno parlato delle troppe punizioni subite e della medaglia negata. Ora hanno cambiato versione e affermano che è stato l'affaticamento, lo stress. Ma quel giorno lui era serenissimo e per niente stanco. Il cappellano della guardia mi ha detto di aver incontrato Cédric quella sera e di averlo trovato inferocito con il comandante. Poi ho saputo dagli amici di mio figlio che non era vero. Mi hanno detto solo menzogne, fin dall'inizio. Mi spieghi meglio. Dal Vaticano, prima, mi hanno invitato a non andare a Roma. Non potevo vedere mio figlio, perché era in uno stato terribile per via del colpo alla testa. Ma io insistevo. Allora hanno obiettato che a Roma faceva caldo e che il suo corpo era in decomposizione. Ma non avete delle celle frigorifere nei vostri obitori, gli ho chiesto. Quindi hanno cercato di bloccarmi dicendo che gli alberghi erano tutti pieni. Un comportamento molto poco religioso nei confronti di una madre che ha perso il figlio in questo modo. E a casa loro. Lei dice che Cédric il 4 maggio non era alterato. Come fa a affermarlo? Quella mattina avevamo parlato al telefono. Era felice. Diceva di aver trovato lavoro in Svizzera, un posto in banca, come guardia del corpo di un importante banchiere. Avrebbe dovuto congedarsi a luglio. Si sarebbe congedato? Sì. Disse: sono contento perché da Parigi arriva padre Yvonne e porta buone notizie. Chi è padre Yvonne? Non l'avevo mai sentito prima. Lo incontrai la prima volta il 6 maggio nella camera ardente. Era seduto vicino alla bara di Cédric e piangeva a dirotto. Mi dissero che era il suo padre spirituale. Mi avvicinai e paradossalmente fui io a cercare di consolare lui. Disse che era colpa sua. Disse che avrebbe dovuto impedire a Cédric di fare ciò che aveva fatto. E poi gridò forte: l'hanno assassinato! L'hanno assassinato! E lei cosa ha fatto? Gli ho chiesto chi l'ha assassinato, ma non mi ha risposto. Più tardi ci siamo rivisti. Io ero con una mia amica. Lui ha insistito a dire che Cédric era stato ucciso, che ne aveva le prove nella borsa. Diceva di essere in pericolo, che anche noi eravamo in pericolo. Non ha saputo di più? È sparito. Ne ha parlato agli inquirenti? Mi hanno detto che non conoscevano nessun padre Yvonne, ma sono sicura che mentissero. Perché? Perché lui conosceva un sacco di persone. Noi, per esempio, non avevamo lire e lui fece riaprire la banca che era chiusa perché era pomeriggio. Gli bastò dire chi fosse perché la banca riaprisse. Che cosa conteneva la borsa di questo padre Yvonne? Non lo so. Ma da quel giorno non faccio altro che fare collegamenti. Mi è venuto in mente che una volta mio figlio mi aveva detto che stava conducendo un'inchiesta sull'Opus Dei nella Guardia Svizzera. Di che cosa si trattava? Non mi disse nulla di preciso. Aveva capito che quella storia non mi piaceva e non me ne parlo più. Ma lui temeva l'Opus Dei e disse che Esterman e la moglie ne facevano parte. È stato detto che suo figlio era pieno d'odio per le troppe punizioni subite. No, mio figlio non era capace di odio. Sapevo che era stato punito, ma con me non se n'era mai lamentato. Aveva un carattere forte. Non sapeva nutrire risentimento. Di Esterman diceva che era un duro, ma non lo odiava, erano amici. Ma la versione ufficiale è quella di una medaglia che gli sarebbe stata negata per le sue intemperanze. Non è vero. Era sereno, era contento del suo nuovo lavoro, della guardia, della medaglia. Non gliene fregava più nulla, me lo disse lui. Disse proprio: me ne frego della medaglia. Che cosa farà adesso? Continuerò a cercare. Dovessi metterci 30 anni, troverò la verità sulla morte di mio figlio. Quella vera! Con decreto in data 5 febbraio 1999, il giudice istruttore del Tribunale dello Stato Vaticano ha disposto l'archiviazione degli atti. Il giudice istruttore ha così accolto la tesi del pubblico ministero, il quale, sulla base di un'accurata indagine preliminare, corredata di numerose perizie e audizioni di testi e riscontri probatori, aveva richiesto il 1 febbraio scorso il non doversi promuovere l'azione penale, essendo giunto alla conclusione che i coniugi Esterman sono rimasti uccisi dal vice caporale Tornè, il quale subito dopo si è tolto la vita. Comprendiamo il dolore della signora Baudin, ma i fatti sono stati accertati. La realtà non si può cancellare. Il suo dolore è comprensibile e va rispettato, così come va rispettato il dolore molto silenzioso e molto dignitoso delle famiglie dei coniugi Esterman. L'8 febbraio 1999 la Santa Sede rende pubbliche 9 pagine di brani accuratamente selezionati e disseminati di omissis, che sostiene essere tratte dai risultati dell'inchiesta. Un collage arbitrario e scorretto, confezionato per dimostrare che il presunto omicida suicida, oltre a essere impazzito, sarebbe stato gravemente malato e perfino dedito agli stupefacenti. La relazione del promotore di giustizia è lunga 100 pagine e nella sua integralità viene mantenuta rigorosamente segreta. Un fatto di inaudita gravità, che dimostra ancora una volta la collusione e l'incestuosità dei poteri all'interno del Vaticano. Ricapitolando, l'inchiesta preliminare l'ha curata il giudice unico dello Stato del Vaticano, con funzione di giudice istruttore. Aperta la sera del 4 maggio, l'inchiesta di quel magistrato è stata chiusa 5 giorni dopo, il 9 maggio. Poi la pratica è passata al promotore di giustizia, il pubblico ministero dello Stato Vaticano, che ha proseguito le indagini fino al 1 febbraio 1999 e ha depositato le sue conclusioni nelle mani del giudice unico del Vaticano, la stessa persona che aveva svolto inizialmente le indagini in qualità di giudice istruttore. In pratica, il signor A ha aperto l'inchiesta, l'ha istruita e l'ha passata al signor B. Il signor B ha svolto le indagini e ha depositato le sue conclusioni nelle mani del signor A, che ha deciso il non luogo a procedere e ha archiviato gli atti. È impossibile non constatare la confusione, la sovrapposizione di competenze che caratterizzano la struttura giudiziaria dello Stato Vaticano e la totale assenza dei più basilari principi che caratterizzano il diritto penale in tutti gli stati liberi e democratici, cioè la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa. Il decreto del 5 febbraio costituisce la sola posizione ufficiale assunta dalla giustizia vaticana a proposito dei fatti del 4 maggio e Cédric Tornè non vi è indicato né come il colpevole accertato né come sospettato di essere colpevole di un duplice omicidio e del proprio suicidio. In realtà il documento giudiziario manipolato dalla Santa Sede non dimostra affatto che Cédric Tornè sia il responsabile della strage del 4 maggio 1998. Lo suppone, lo ritiene probabile, lo ipotizza, ma non lo dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto reso noto dalla Santa Sede non esclude che la vera dinamica della strage possa essere stata in tutto o in parte diversa, magari coperta da una macabra messa in scena. Infatti non vi è alcuna reale certezza che nell'appartamento degli Esterman quella sera non vi fossero altre persone. Che i colpi sparati dalla pistola del vice caporale siano stati esplosi dal Tournai e tutti e solo da lui. Che il vice caporale Tournai sia stato effettivamente presente in vita nell'appartamento degli Esterman al momento della loro uccisione. Che Cédric Tournai non sia stato suicidato. Che qualcuno dei testimoni non abbia mentito. Che altri testimoni non abbiano taciuto o che non siano stati ascoltati. Che i rilevamenti effettuati sul luogo della strage siano puntuali, completi, corretti. I brani del testo del documento giudiziario citati dalla Santa Sede sono disseminati di dubbi. Si deduce. Improbabile. Eventuale. Eventualità. Ipotesi. Non è del tutto da escludere. Maggiore plausibilità. Con ogni probabilità. Probabilmente. Verosimilmente. Assai probabilmente. Molto attendibilmente. Potrebbe. E sembra. Vengono ripetuti più e più volte. Solo il termine probabilmente viene ripetuto una decina di volte. Di certo c'è solo il fatto che gli atti completi dell'istruttoria sono tenuti segreti e non possono prenderne visione neppure i legali della signora Baudat, cioè di colei che legalmente rappresenta il presunto omicida. È evidente che l'intento della Santa Sede non è quello di fare chiarezza sull'inchiesta, ma quello di chiudere il caso secondo la propria verità. Una verità costruita sulle omissioni e sulla menzogna. Gli elementi presuntamente accertati dalle autopsie e dalle perizie non sono stati sottoposti al vaglio di nessuna verifica, né alcune delle poche testimonianze è stata circostanziata. Tutto è risolto in un rozzo teorema senza movente, che si tenta di rendere plausibile attribuendolo ad una specie di raptus di follia premeditato, secondo la teoria criminologica inventata dalla Santa Sede per l'occasione. Ma la versione diramata tre giorni dopo dalla Santa Sede l'ha trasformata nella dimostrazione della sua versione ufficiale, lasciando intendere che anche il Tribunale dello Stato Vaticano avesse formalmente stabilito e riconosciuto la colpevolezza dell'omicida suicida Tournai. Un clamoroso falso, un proditorio inganno dell'opinione pubblica. Nessuna indagine è stata svolta sul conto di Alois Esterman e di Gladys Meza Romero, né all'interno della Guardia Svizzera Pontificia. Mentre il vice caporale Tournai è stato vivisezionato nel corpo e nella mente fino ad essere definito malato, pazzo e perfino drogato. Quali furono le ragioni della folgorante carriera di Alois Esterman nella Guardia Svizzera? Perché la Santa Sede per quasi un anno non riuscì a nominarlo comandante del corpo? Perché Gladys Meza Romero lasciò il Venezuela e si trasferì a Roma sposando un presunto omosessuale? Perché, pur essendo una semplice impiegata, svolgeva un ruolo da diplomatica, di fatto? Fino a che punto si era spinta l'attività filopussiana di Esterman? Per stabilire la verità sulla strage del 4 maggio 1998, un'inchiesta giudiziaria seria avrebbe dovuto rispondere a queste elementari domande. Ma la magistratura vaticana tali domande non se le è neanche poste. Si è limitata a ratificare, con discutibili risultanze tecnico-investigative, la verità ufficiale della Santa Sede. Pervenuta al promotore di giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, trasmessa per competenza della Segreteria di Stato, una richiesta di riapertura della relativa istruttoria a firma degli avvocati Jacques Verger e Luc Brosolet per conto della signora Muguette Baudat, madre del caporale Tournai. Tale richiesta è attualmente all'esame dell'ufficio giudiziario dello Stato della Città del Vaticano. I punti chiave per la riapertura del caso si basano essenzialmente su due elementi. La seconda autopsia effettuata sul corpo di Cédric Tournai presso l'Istituto di Medicina Legale di Losanna e l'esame grafologico della lettera che Cédric avrebbe indirizzato alla madre. Il Vaticano ha dichiarato che il vice caporale Cédric Tournai si è suicidato con l'arma d'ordinanza che aveva in dotazione, una Sig Sauer calibro 9.41. Ma l'autopsia effettuata presso l'Istituto di Medicina Legale di Losanna afferma che il foro d'uscita del proiettile alla base del cranio della vittima è un foro di soli 7 mm. Allora noi ci poniamo questa semplice domanda. Com'è possibile che un proiettile di 9.41 mm possa uscire da un foro di soli 7 mm? Secondo la ricostruzione dei fatti, nella versione della magistratura vaticana, dopo aver compiuto il duplice omicidio, il Tornè avrebbe rivolto l'arma contro se stesso, infilandosi la canna della pistola nella bocca. Quindi avrebbe esploso il colpo finale, morendo all'istante. Il cadavere di Tornè è stato ritrovato prono a terra, con l'addome contro il pavimento, e la pistola con la quale avrebbe compiuto il massacro sarebbe stata trovata sotto di lui all'altezza del bacino. Se ne deduce che il corpo del Tornè, ormai privo di vita, sarebbe caduto in avanti e la pistola sarebbe scivolata a terra, rimanendo sotto di lui. Questa dinamica appare inverosimile. Infatti, l'impatto del proiettile contro le ossa del cranio porta a dire che nell'attimo seguente all'esplosione del colpo la testa di Tornè si sia sbilanciata all'indietro e non in avanti. La magistratura vaticana sostiene che prima di esplodere il colpo finale Cédric si sarebbe inginocchiato a terra e questo avrebbe provocato la sua caduta in avanti, ma questa tesi è incompatibile con la traiettoria del proiettile rilevata dalla seconda autopsia. Ecco la traiettoria del proiettile, possibile solo con la testa reclinata all'indietro. Anche se fosse stato inginocchiato con la testa reclinata all'indietro, Cédric sarebbe caduto comunque all'indietro. Qualsiasi altra posizione avrebbe causato danni diversi da quelli riscontrati. Inoltre, la perdita istantanea di conoscenza e del controllo della muscolatura da parte di Tornè, a cui va aggiunto l'effetto del rinculo dell'arma tenuta in una mano ormai priva di sensi, porta a dire che le probabilità che la pistola potesse finire sotto il corpo del Tornè, laddove il Vaticano sostiene sia stata ritrovata, siano praticamente nulle. In casi analoghi la pistola viene ritrovata solitamente a distanza di 1 o 2 metri dalla persona che ha premuto il grilletto. Si è inoltre riscontrata una frattura alla base della rocca petrosa sul lato sinistro del cranio della vittima. La rocca petrosa è un osso cranico molto spesso a forma di piramide che si trova su entrambi i lati della testa, sopra le orecchie. La frattura è esterna e non si può spiegare con il passaggio della pallottola perché l'osso non si trova sulla traiettoria del proiettile. Un altro elemento che è emerso dall'autopsia è la presenza di sangue e muco nei polmoni di Cédric. Il muco non si forma dopo la morte, che in questo caso deve essere stata immediata. Nella tesi vaticana Cédric aveva la broncopolmonite, ma quel giorno Cédric ha prestato servizio regolarmente e ha parlato al telefono con la madre senza minimamente fare accenno a una malattia così grave. La sua voce era assolutamente normale, quindi questo sangue e questo muco devono avere un'altra spiegazione. L'unica spiegazione possibile, mettendo in relazione questi due elementi, è che Cédric, prima di venire ucciso, sia stato tramortito con un colpo al lato sinistro della testa. Il colpo ha provocato la frattura della rocca petrosa con un'emorragia diffusa nel cervello. Il sangue è sceso e ha invaso la trachea, i bronchi e i polmoni. E quando il sangue invade i polmoni provoca una difficoltà respiratoria che induce la secrezione di muco. Quindi, dopo che è stato colpito alla testa a casa degli Esterman, o forse prima di arrivare dagli Esterman, lui sarà rimasto per almeno 10 o 20 minuti in stato di incoscienza, in stato semicomatoso. E in quel lasso di tempo in cui Cédric è stato colpito ma non era ancora morto, il sangue ha invaso i polmoni. Siccome Cédric aveva la bocca chiusa, gli è stata reclinata la testa all'indietro e gli è stata introdotta a forza l'arma nella bocca, causando la spaccatura dei denti incisivi superiori. Altro importante elemento emerso nella seconda autopsia. Poi è stato esploso il colpo. E il corpo di Cédric è stato sistemato per creare la messa in scena. Passiamo ora ai rilievi grafologici relativi alla lettera che è stata consegnata dalle autorità vaticane alla signora Baudin, madre di Tornè. La lettera che Cédric Tornè avrebbe lasciato è opera di un falsario. Cédric aveva una scrittura infantile, facile da imitare, ed è stata imitata bene, tranne che per certi particolari più difficili da imitare. La costruzione dei periodi risente di evidenti italianismi, vale a dire che potrebbe essere stata scritta o dettata in italiano e poi tradotta in francese. Oppure scritta in francese da qualcuno che parlava il francese, ma non come prima lingua e che continuava a pensare in italiano. Inoltre, la lettera è stata scritta su un foglio di carta di un tipo che Cédric non usava mai. Un foglio che stranamente faceva parte delle forniture vaticane. Quindi il nostro esperto grafologo dice che la lettera non è stata scritta dalla mano di Cédric. Ecco il testo della lettera. Mamma, spero che tu mi perdonerai perché quello che ho fatto sono stati loro che mi hanno spinto a farlo. Quest'anno dovevo ricevere la benemerenti, ma il tenente colonnello me l'ha rifiutata. Dopo 3 anni, 6 mesi, 6 giorni passati qui a sopportare tutte le ingiustizie, la sola cosa che volevo me l'hanno rifiutata. Devo rendere questo servizio a tutte le altre guardie, così come alla Chiesa Cattolica. Ho giurato di dare la mia vita per il Papa ed è proprio questo che faccio. Mi scuso di lasciarvi soli, ma il mio dovere mi chiama. Di a Sara, Melinda e papà che vi amo tutti. Bacioni alla più grande mamma del mondo. Tuo figlio che ti ama, Cedric. Per me questa non è la lettera di uno che va a uccidere, né di uno che si uccide. È la lettera di uno che va a fare qualcosa di grave. È comunque una lettera molto strana. Per esempio, Cedric nomina le sue 2 sorelle, Sara e Melinda, ma non cita i suoi 2 fratelli, che sono i figli nati dal secondo matrimonio del mio ex marito. Cedric gli voleva molto bene, ma non li nomina nella lettera. Forse il Vaticano ignorava che Cedric avesse anche 2 fratelli. Anche l'indirizzo sulla busta è fasullo. Dopo il mio divorzio, Cedric mi indirizzava le sue lettere indicando il mio cognome da ragazza, Baudat. Invece su questa busta c'è il cognome del mio secondo marito, Charles Morel, il cognome con il quale sono conosciuta in Vaticano. La scrittura sembra quella di Cedric, ma ci sono delle differenze. Non sono le parole che avrebbe usato mio figlio. E poi c'è un errore di calcolo, e quello Cedric non l'avrebbe mai fatto. Era molto forte in matematica. Beh, sulla lettera c'è scritto 3 anni, 6 mesi e 6 giorni. Cedric si era arruolato il 1 dicembre del 1999, e il 4 maggio, la data riportata sulla lettera, erano trascorsi solo 3 anni, 5 mesi e 3 giorni. Forse la lettera era stata scritta per qualcosa che doveva succedere più tardi, il 7 giugno, e la data del 4 maggio è stata scritta in un secondo momento. L'unica spiegazione data dal Vaticano per dare un movente a questa strage si basa sulla tesi del raptus di follia, che avrebbe colpito il vice caporale Tornea all'improvviso, senza che avesse mai dato segni di squilibrio mentale prima di allora. Tuttavia, le medesime fonti della Santa Sede hanno denunciato l'esistenza di una lettera, che viene data per scritta da Tornè, indirizzata alla sua famiglia, ma affidata ad un amico e collega piuttosto che all'ufficio postale, come sarebbe apparso più logico, circa 1 ora e mezza prima della sua morte. Se questa missiva è da intendersi come un messaggio di spiegazioni e quindi ha il significato di una lettera di addio di un suicida, allora il duplice omicidio non è stato dettato da un raptus, si è trattato di un assassinio premeditato. Tornè, se quella lettera ha il significato predetto, ha pianificato con lucidità la strage, tanto da scrivere, prima di compierla, ai suoi genitori. Non è una differenza da poco. Unfurl the banner and raise it to the sky, let eagle cry from mountain high, the never-ending watchword of our nation. Now behold this gem of all the wonder of the western sky. Corte di appello dello Stato della Città di Vaticano, 22 febbraio 1999. Vista l'istanza presentata alla Cancelleria in data 18 febbraio 1999 dai signori avvocati Jacques Vergier e Luc Brosolet, quali difensori della signora Muguet Baudat, madre del defunto Cédric Tornè, atteso che non risulta essere iniziato procedimento giudiziario alcuno dinanzi ai tribunali dello Stato, nel quale potrebbe ravvisarsi un diritto a parteciparvi da parte dei suddetti avvocati e la loro rappresentata, atteso che nessuna ragione in diritto e in fatto viene adottata con la quale possa fondarsi la richiesta contenuta nell'istanza in oggetto, decreta il non doversi a procedere e quindi conferma di fatto il precedente decreto del 10 dicembre 1998. Sweet in the morning, oh Lord, it's sweet in the morning. In Vaticano c'è chi sostiene che il vice caporale Tornè sarebbe stato aggredito alla fine del servizio e trascinato in divisa e armato dalla pistola d'ordinanza nello scantinato dello stabile nel quale gli aggressori erano penetrati dall'accesso di Porta Sant'Anna. Un'altra versione sostiene che Torné sarebbe stato convocato in casa del comandante e aggredito lungo il percorso dopo le 20:45, come dimostrerebbe un messaggio vocale lasciato da Cédric nella segreteria telefonica di Bertorello. Successivamente, il corpo di Torné sarebbe stato trasportato nell'abitazione degli Esterman e suicidato con una pistola silenziata calibro 7. La stessa arma utilizzata per uccidere i coniugi Esterman. I killer avrebbero poi lasciato lo stabile attraverso il locale sotterraneo. Risulta da varie fonti rimaste anonime che sul luogo del delitto ci sarebbero state più persone al momento della strage. Nel momento in cui viene colpito, Esterman stava parlando al telefono con un conoscente che non ricorda alcun particolare di quella telefonata che possa gettare luce sulle circostanze del triplice delitto. Si dice anche che al momento della scoperta dei tre cadaveri, Torné indossasse l'uniforme di servizio, che gli sarebbe stata poi tolta e sostituita con abiti civili prima dell'arrivo del giudice unico, e che un'analoga operazione sarebbe stata fatta sul cadavere della signora Esterman. La madre di Cédric sta ancora aspettando che le vengano riconsegnati i vestiti e gli effetti personali di suo figlio. In Vaticano si mormora che Aloise e Cédric avessero avuto un'intesa omosessuale poi degenerata. Una circostanza che è stata impugnata per fornire all'accaduto anche un movente passionale. La sera del 4 maggio, alle ore 20, un'auto ha lasciato il Vaticano e si è recata nel centro di Roma, presso l'albergo vicino al Vaticano nel quale erano alloggiati i parenti del neo comandante Esterman, per prelevarli ed accompagnarli alla caserma delle guardie svizzere. Però, al ritorno, l'auto ha smarrito la strada e i parenti del neocomandante sono arrivati in Vaticano soltanto alle ore 21, quando Esterman, sua moglie e il vice caporale Torné erano appena stati uccisi. Nessun magistrato ha accertato per quale ragione il cappellano del corpo quella sera si sia allontanato dalla caserma per recarsi a cena in un ristorante del centro, lasciando il recapito telefonico del locale per essere chiamato in caso di necessità. Il movente del triplice delitto è da ricercare in una o più ragioni convergenti. La contrastatissima nomina di Esterman a comandante della Guardia Svizzera. La figura, il ruolo, le attività finanziarie dei coniugi Esterman in Vaticano. E Cédric Torné come ideale copertura dell'esecuzione per addossargli il duplice delitto ed evitare indagini a vasto raggio. Nessun magistrato vaticano avrebbe mai potuto azzardarsi a cercare una simile verità. Subito dopo l'archiviazione, il Vaticano si è preoccupato di far sparire il luogo della strage. Nel marzo del 1999, infatti, l'appartamento del triplice delitto del 4 maggio 1998 è stato completamente ristrutturato.